confuso nella loro scelta, e quindi siamo andati per non fare gli urci e cose, però io diciamo che sono un po' contrario a certi posti, ecco, di quel tipo di... Che io sono andato giusto perché mia figlia mi ha detto, cioè, dai, mi ha mezzo convinto, allora giusto un po' per curiosità, un po' per vedere un po' tutto là e tutto quanto, però vabbè, lasciamo perdere, va. Avanti Roberto. Chi si state parlando? Tu hai lasciato il bicchiere, lo sa, ho detto già, ma lo sa, mi sono dicendo che mi ha lasciato il bicchiere, io vabbè, là. Cavagava, andava a rompere il primo. Sta facendo su la chiamata, dei cinesi, i materiali cinesi state dicendo. Ma andate le pizze, dai, scusate, mentre ci sentiamo dopo. Cavagava, ok, avanti, sa. Ok, dai. Ciao Roberto, dai, buona pizzata, buona carica. Se qui ci sia più tardi, dai. Sì, ormai è passata, ormai è passata e digerito, per carità, guarda, sono rimasto cavolo così, bloccato proprio, cioè, perché ti viene il dubbio. Chiamo la telefonia per fare ciucciù e poi li faccio rimaniare. Sì, a mettere il ringrasso. Sì. Ma lattici tu mangiato l'hai? No, non ho mangiato. Ma allora, già, ma se tu consideri, a partire diciamo dalle fondamenta, riguardo diciamo alla struttura, riguardo diciamo a tutto le messe insieme, riguardo diciamo all'importo che uno paga, a tutto quello che viene offerto e quant'altro, cioè ti fa approfondire un attimino tutto il discorso? Sì, sembra quasi una cosa impossibile in effetti. Sono rimasto anche io un po' così quando avete ripreso, poi ci ho fatto anche il digestivo addirittura a noi. Poi ha fatto amicizia con un nostro amico che praticamente fa marketing, e ha lavorato sia come direttore in banca, ha fatto un sacco di roba, adesso insegna marketing. E praticamente io l'ha colpito, si è fermato a parlare, ha detto che hanno tre ristoranti ora a Sassari e che è venuto qua perché loro volevano tre figli e dice che praticamente in Cina se ne possono fare al massimo due, perché se tua moglie rimane incinta dopo due figli vanno alla polizia, la prendono, la portano in ospedale e ritrovano un bambino, rapito, non te ne fanno fare tre. Addirittura, che leggi veramente strane, evidentemente, ma lì logicamente lo sai com'è, bambini diciamo ce ne sono molti, non è come in Italia, e evidentemente hanno messo un limite anche su quello discorso lì. Sì, perché la popolazione è sovrannumero sicuramente, ma che vedi ti dico. E comunque hanno parlato molto, cioè si potrebbe fare qualcosa insieme, gli ha detto, se riusciamo a realizzare qualcosa, mi fa piacere, dovrò andare a parlarci, questa dico io, perché così come sempre in cerca di lavori nuovi, capito, lui è molto, diciamo ha fatto molti tipi di lavoro, c'è una pizzeria anche a Urbia, però dice... ma che pizzeria questi soldi, riesci a spendere così poco mangiando anche una pizza, spendi sempre di più. Sì, è quello che ti fa un attimino soffermare diciamo e ragionare un attimino, perché in base diciamo al prezzo, a prescindere diciamo dalla varietà diciamo dei prodotti, e poi diciamo in base diciamo alla qualità e quant'altro, diciamo io diciamo non è che possa dire niente, perché essendo la prima volta diciamo, non è che posso dire che ti trovi male. Poi prendi il discorso, diciamo, del pesce, il pesce che te lo metti lì, te lo scegli, te lo fai cucinare e quant'altro, diciamo, ristoranti italiani di quel tipo di genere di lavoro, almeno che io sappia, non ne fanno. Sì, allora, tu vai, ti scegli il pesce che vuoi, te lo pesano, te lo cucinano, te lo servono a tavola, però non te lo fanno pagare, non ti fanno pagare certo quella cifra. Comunque ho mangiato delle coscette che non ho capito ancora se erano di cagnolino oppure coscette di rana, cos'era, ma erano buone. Vabbè, l'ho assaggiata anche io quelle lì, ed erano buone, posso dire che erano buone, diciamo che erano coscette di pollo, sembravano coscette di pollo, diciamo, poi che siano state di coniglio, di cagnolino, di rana o di gatto, questo non lo so. Però è un troppo piccolo il pescetto di pollo, no, se ci pensi bene erano troppo piccolini. Sì, diciamo dalla classica cuscia di pollo normale che è, era molto molto ridotta, all'infuori che non sia un pollo, hai presente di quei polli, e poi non sono polli, sono dei galletti, quei tipi di galletti americani o come li chiamano, che sono molto molto più piccoli del pollo. Sì, ce li ho presenti, ce li aveva anche Massimiliano, quelli colorati, là, quelli che erano i più bel colorati. Sì, ho capito. Ma mi sono considerato quello che mi ha detto, ce l'ho immaginato di tutto. Anche quella lì è stata un'esperienza. No, non mi posso lamentare perché diciamo che mi sono trovato abbastanza, non posso dire niente, abbastanza bene, diciamo qualità, prezzo, va bene. Adesso lo racconta mia moglie. E poi se non sbaglio lì ho riconosciuto, correggimi se sbaglio, siccome lì da Penna Bianca, lì da Marco, lì c'è qualcosina di cotonino, diciamo così, la moglie di Marco, Emanuela, ha una sorella. Forza, fammi la cortesia, ripetilo che c'è mia moglie, e che cos'è successo, diglielo. Non vi voglio, diciamo, spezzare l'appetito. Poi a faccia glielo racconto io. Bravo, dai. Mia moglie dice che i bocconcini non li abbiamo mangiato, che abbiamo mangiato le coscette di cosa abbiamo mangiato, di rana o che cosa era. Quella specie di, chiamiamolo spezzatino, chiamiamolo, che mi sembra che all'interno c'erano delle verdure con sugo, di quelle ne hai mangiato? Ma io negativo, di quello no. Io ho mangiato lo sushi, con le coscette lì, io mi sono fatto una volta solo, ho visto gente che si è stata anche 3-4 volte a farsi il giro, cosa che non so dove abuso la roba, perché io con una volta mi sono rimpiccato proprio. Ho mangiato con le coscette lì e poi il gelato mi sono preso, che te lo fai tu da solo, no? Già lo sai com'è, vai e ti servi, ti metti le palle che vuoi. L'ho fatto a me e a mio figlio, tutto lì, non è che non ho mangiato tantissimo, ho visto gente che si è aperta 3-4 volte a farsi il giro. Sì, non lo mangio neanche io, ho fatto piccoli assaggini e quant'altro, poi non è che sia un gran mangiore, diciamo che è stata più che altro la curiosità, tutto lì. Vabbè, speriamo che nel senso poi non solo per allevare il ciucciù. Speriamo bene che sia così, dai. Vabbè, comunque, tiriamo avanti. Ciao, mi devi scusare, ma mi hanno chiamato per far carica, dai, se coincide a più tardi. E non c'è problema, buona carica, ci sentiamo. Non dormire, sono proprio